significativi artisticamente parlando, giusto? Li vedo un po' sorpresi i nostri ospiti. I nostri ospiti, perché pensavano di essere in un programma di arte contemporanea, invece si parla di Calababala e di matematica. Ma presentiamo le nostre ospitesse. Infatti io usavo il maschile giusto per tenere un po' di suspense. Sì, infatti. Allora, le nostre ospiti sono Giancarlo Norese, che esatto, però è nascosto, però non parla, è nascosto e non dirà niente. Però voleva. Poi abbiamo 4 fuori sedia e 2 fuori sede. Ok. Ok. Allora, le 4 fuori sedia ci spiegheranno poi che cosa sono e perché sono qui. Che sono loro, le ospiti ufficiali. Intanto le andiamo ufficiali. A nominare. Esatto. Le andiamo a nominare perché dopo un sondaggio, anche questo intranos, si è stabilito che era giusto nominarle. Sì. E quindi Martina Scrazzolo, sì, di Udine. Sì, ciao. Viola Pierozzi, Pistoia. Esatto. anche i posti da cui vengono. E certo, wow. fuori sede, mi sembrava rilevante. Okay. Per, come dire, questa puntata a questo sottofocus geografico. Valeria Sciabani di Bergamo. Sì, ciao. Letizia Albertini di Roma. Esatto. E ciao. Queste sono le fuori sedia che mettiamo qua nei miei appunti in una parentesi quadrata, tonda, okay, graffa in realtà. E poi abbiamo invece fuori sede Teresa Paladini da Lucca, sì, e Amelia Foti da Milazzo. Ciao. Wow, da Milazzo. Wow. Esatto, che ha vinto il premio per la distanza maggiore per corsa, che succede sempre così, quindi non è che noi siamo stati particolarmente originali. Dopodiché abbiamo Marco Roma, probabilmente da Roma, chissà, un po' l'accento romano. Secondo però me lui si chiama Marco Roma e basta. Però si chiama Marco Roma e se basta. Se ascolta Radio Città Fugico io lo darei bolognese comunque. Non ha l'accento bolognese. Vabbè, che cosa c'entra? Siamo tutti fuori sede qua. Cioè, di bolognese chi c'è di bolognese? Nessuno in questo studio. Come no? No, nessuno c'è di bolognese. Nessuno? E io da dove vengo? Scusa. Tu vieni da Zola Predosa. Ma cosa dici? Io sono bolognese doc, cara mia. Sai. Io abitavo a Zola Pietosa, ma voglio dire, è stato un attimo, quegli 11 anni in cui non mi potevo permettere di abitare a Bologna. Non so perché non mi parla. Ah, ecco perché c'è qualcuno, qualche simpaticone che mi abbassa il tablet. Eccolo qua, vedi. Questo è l'argomento più interessante, esatto, di tutta la puntata. Buongiorno. Sentire Marco Roma. Vedrai che tutto passerà. Questa sofferenza che tu hai dentro passerà. Non ti preoccupare, passerà. Vedrai, leggi il tuo cuore, passerà. Da Marco Roma. Buongiorno. Vabbè, si è anche, diciamo, è stato sintetico oggi, sì, no, sapendo infatti che c'erano molte ospiti. Dubito che lui sapesse qualcosa di quello che succedeva a Coxo Spaziale. E Marco Roma, perché continuo tutto a dubitare che comunque lui ascolti Coxo Spaziale. Ma lo ascolta certamente, è uno dei nostri. Mentre invece chi ascolta Coxo Spaziale è la nostra Mia da Schio su Piei, che salutiamo. Ciao, caldamente, Mia. Malgrado ci abbia tirato il pacco. Beh, insomma, il pacco. La settimana scorsa. Ah, beh, così come Roberta Giallo. Un po' di gente Giallo ci ha paccato la settimana scorsa. Potevano chiamare le fuori sedie che si sarebbero divertite. Ma però poi dopo non poteva. Perché no, eravamo, non so, l'anno scorso. Per me ormai l'anno è passato scorso. Un anno. No, dalla in effetti devo dire che questo watershed tra la 499esima puntata e la 501 mi lascia un po' così, un po' stranito. Non so, secondo me devi spiegare, perché non so se qualcuno ha capito. Che cosa? Ma non so cosa volevi dire, ammesso che tu volessi dire qualcosa. Comunque io entrerei un attimo più nel vivo della puntata. Sì, dai, facciamo sennò, così, cioè, infatti, grazie. Siamo già sull'orlo del licenziamento, quindi non aggiungerei, come dire, ragioni. E veniamo quindi a parlare delle ospiti fuori sedia, che magari ci spiegano intanto, oltre alla provenienza geografica, cosa fanno qui a Bologna, perché sono venute, le diverse ragioni e cosa le unisce sotto questo nome. Nel frattempo io dico che se qualcuno vuole salutarle in diretta o ha delle domande, lo può fare via WhatsApp con un vocale o anche digitando al 333 180 94 94. fanno dei gran cenni tra di loro. Sì, sì. Ma, cioè, ma loro hanno un... Che noi comunichiamo così, cioè, in maniera telepatica. Per me sono telepatiche. Siete telepatiche, sì, quindi sì. Cioè, sì, è una puntata che, cioè, non, le cose più importanti non le... non si vengono le... L'ascoltatore radiofonico non le può cogliere, ma per come dire, consolare i nostri pochissimi ascoltatori, dico che anche io non è che capisca molto, cioè occhiate, prima guardavano me, si dicevano delle cose nelle orecchie, no? Sai come stiamo perdinando, ci stiamo perdinando. È così. E, beh, fuori sedia, innanzitutto noi siamo tutte studentesse, tre di noi studiano magistrale di arti visive dell'Alma Mater di Bologna. Che ho scoperto non essere il DAM. Esattamente, no. Ok, però non è neanche l'Accademia. Però abbiamo la studentessa dell'Accademia, perché la Marti studia didattica dell'arte al biennio dell'Accademia, sempre di Bologna, e noi ci siamo conosciute tutte in ambito universitario, proprio i primi giorni di lezione di 2 anni fa. E abbiamo Martina si era sbagliata. No, Martina Martina okay. Sì, poi ha deciso di cambiare. Sì, ho frequentato un anno il corso di arti visive all'università e poi ho detto no, aspetta un attimo, forse cambio. Ok. E mi sono spostata. Secondo me questo tema interessa alle altre due ospiti che sono fuori sede per il momento senza sedia, però magari sì, magari sarà uno degli argomenti dibattuti, non lo so, vediamo. Volentieri. E quindi sì, ci siamo conosciute tutte all'università e ci siamo subito trovate molto bene insieme, e dopo un anno abbiamo deciso di portare al pubblico sui social, su YouTube, su Spotify, quelle che erano le nostre chiacchierate che riguardavano la nostra passione, quindi l'arte. Noi in particolare siamo tutte proiettate verso il contemporaneo e quindi niente, ci siamo messe una telecamera davanti, due microfoni, abbiamo detto proviamoci. Quindi abbiamo un po' pensato a quello che poteva essere il progetto. Abbiamo applicato per un bando europeo, i Solidarity Corps, abbiamo vinto. Fantastico. Con la nostra grande sorpresa. E quindi applauso. Grazie. No, grazie, veramente. Grazie. E questo ci ha permesso di rendere il tutto un pochino più professionale, chiaramente. Perché avendo... Vi ha permesso, vi ha costretto. Ci ha costretto e permesso. Sì. 50 e 50. Okay. Forse dovremmo partecipare a un bando con Cox Spaziale. Cosa dici? Così finalmente forse. E riusciamo a diventare professionali forse, anche noi. Forse chi ce lo la possiamo, così ci costringono a fare un programma serio. Da prendere in considerazione. Sì, sì, serve sempre. E quindi in realtà abbiamo vinto il bando, abbiamo ricevuto la comunicazione della vittoria il 28 dicembre del 2023 e abbiamo subito iniziato a progettare e realizzare, abbiamo aperto i canali social e abbiamo iniziato con questa avventura che si chiama Fuori Sedia, che è un gioco di parole tra la parola fuori sede, che è quello che ci accomuna tutte, perché veniamo da tutte parti d'Italia diverse, e un'opera che è One Tree Chairs di Joseph Kossuth. Hai capito, quindi siamo sul concettuale, siamo proprio sul concettuale, il papà del concettuale proprio della tradizione più purista. Esatto, perché in realtà poi la cosa è che c'è stato un momento divertente tra di noi, perché mancava una sedia un giorno che stavamo parlando appunto di come chiamare il nostro gruppo WhatsApp, e quindi è nata questa fusione un po' così, sì, maniera tipo secondo giorno di università. Esatto, cioè... secondo giorno di università, e quindi da lì di sedia, e quindi poi la sedia è diventata effettivamente l'immagine della nostra però, identità. Cioè, se posso permettermi, vabbè, one and three chairs, voi dite comunque uno più tre quattro, quindi cabalisticamente sì, va bene, torno. Sì, sì, noi ci facciamo tutti i giochi molto strani di parole, tipo sotto i nostri posti di solito è sempre una quattro chiacchiere con, perché è sempre un po' il riferimento a, e quindi niente, poi da lì abbiamo iniziato e abbiamo deciso che nelle nostre chiacchiere volevamo includere anche degli ospiti, e questi ospiti sono le personalità del mondo dell'arte del contemporaneo di Bologna, tra cui Stefano anche è stato nostro ospite. Io ho guardato un pezzettino della vostra intervista. E poi ti sei addormentata. No, ero in vacanza. Qua c'è un colpo di scena però. C'è un commento. Sì. Ciao da Paolo e Gabbo. Grazie. Ah! E non solo, scrivono domanda per voi. Eccoci. A parte l'episodio con Pasquini, tra parentesi, chiaramente il migliore, mi stanno molto simpatici lui, loro. Qual è stato l'episodio del podcast che vi ha soddisfatto di più? Aia. Allora, intanto ci terrei a precisare che Paolo, che ci, Paolo di Paolo e Gabbo, è l'autore del nostro logo. Sì, è il nostro grafico. Ah, ecco, nostro quindi grafico, è interessato. Sì, quindi vi fa queste domande un po' rabocchetto. Ma noi vediamo un sacco adesso, bene. No. Adesso cosa dite? Se dite perché se non scriveva a parte Pasquini era facile. Quindi comunque Stefano l'abbiamo già. Oddio, è difficile questa qui, non lo so. Anche perché abbiamo registrato due episodi che devono ancora uscire, che sono stati molto molto belli e interessanti. Non lo so. Ma dove si guardano questi episodi? Cerco YouTube di togliervi le castagne dal fuoco, di stogliere un po' il nostro ascoltatore. YouTube e Spotify. Ok, YouTube e Spotify. E dove le registrate? Noi fisicamente? Le registriamo negli spazi di Adiacenze. Mm. Adiacenze è questa realtà di promozione culturale che ci ha veramente accolte. Ringraziamo sempre Giorgia Tronconi e Amerigo Mariotti, che sono i curatori, insomma loro gestiscono lo spazio. E abbiamo intervistato Giorgia, lei è stata la seconda ospite del podcast. Cavoli, questa la devo ancora sentire. Bellissima puntata anche quella. Immagino. Niente, gli è piaciuto molto il progetto e ci hanno voluti accogliere nei loro spazi. Quindi noi siamo, il nostro set è lì. Ci trovate ad Adiacenze. Siete Santo Spirito. Sempre lì? No, siete lì inizialmente quando? Registravamo in camera di Viola, quindi questo era il nostro piccolo studio iniziale per iniziare un po' a dar forma a questo progetto. La famosa cameretta. La famosa cameretta di Viola. La cameretta di Viola che ha le pareti Viola. Che ho... No, perché comunque è una camera da fuori sede, quindi certo. È tutto con le cose dell'IKEA, il set, quello... c'è proprio la casa. Sì, già pronto, esatto, però molto spaziosa, che ci ha accolte tutte. E poi appunto abbiamo intervistato Giorgia, che è stata la nostra seconda ospite, quindi poi da lì è iniziato un po' questo rapporto con Adiacenze. Ci è stato proposto il loro spazio, noi chiaramente abbiamo accettato subito, eravamo contentissime, quindi adesso siamo definitivamente ad Adiacenze, registriamo lì tutte le nostre puntate. Io volevo sapere se uno va ad Adiacenze trova sempre anche voi. No. Noi facciamo uscire una puntata ogni due settimane, però non abbiamo una registrazione programmata. Sì, noi andiamo un po' così randomiche. Abbiamo un'altra domanda. Innanzitutto ci saluta, vi saluta Simo. E poi mi chiede: ma è vero che farete a breve un episodio a Prato? Proprio vero. Domande tendenziose. Sì. Simone in realtà è la quarta fuorisedia. Esatto, in realtà è l'altra fuorisedia. Lui si occupa della parte tecnica, scenografia e varie. E sì, comunque Simo, è vero. Registreremo un episodio a Prato sabato. Intervisteremo due artisti che sono stati in residenza all'Isola d'Elba per la Fondazione Italo Bolano. Gli scartoni donati. E poi l'episodio in realtà uscirà durante la giornata del contemporaneo. Quindi questa però la faremo live per la prima volta con un pubblico. Scusa, io adesso, perché magari l'hanno detto, ma mi sono persa. Però avete parlato di personalità, secondo me forse è un termine un po' sbagliato, però di persone. Artistiche che operano a Bologna. Sì, giusto. Sì. E gli scartoni donati? No. Quello è stata, diciamo che è un'occasione che ci è capitata, anche perché appunto Simone è di Prato e io, essendo di Pistoia, conosco un po' di realtà di Prato, e appunto Erika Romano, che è una curatrice e la direttrice della Fondazione Italo Bolano, è una grande fan del podcast e quindi ci ha richiesto di fare questa cosa appunto in occasione della giornata del contemporaneo, anche perché un po' la visione, penso, del nostro progetto è quella di stagione dopo stagione, insomma, cercare di espandere un po' anche i limiti geografici della nostra ricerca. Quest'anno abbiamo deciso Bologna anche proprio per una questione di bando, perché il Solidarity Corps è una tipologia di bando che si incentra su una località specifica. E quindi per forza di cose abbiamo scelto Bologna, ma con estremo piacere. Sì, assolutamente. Però diciamo che questo vogliamo che sia un po' quello che appunto uscirà ad ottobre, il primo episodio di quella che pensiamo possa essere una futura seconda stagione del podcast, che quindi ha una visione un po' più ampia. Mm-hmm. Sì. Okay. Al di fuori di Bologna. Al di fuori di Bologna, sì. Per esempio Firenze, dove io insegno. Potrebbe bene. Essere. Io sono favorevole ai gemellaggi Bologna. Abbiamo un vocale da Paolo e Gabbo. Possiamo sentirlo? Attendiamoci a metterlo, mandalo, sì. Sperando che non siano insulti. Esatto. Follow me. Caro, canta. Sembra male. A posto. Tutto bene. No, grazie per non aver bestemmiato. Perché magari è Marco Roma. Potrebbe essere. Era lui. Gabbo, Marco potrebbe Roma. Essere. Grazie, Marco Gabbo. Roma, Gabbo. Grazie, Gabbo. Questo è Valerico. Okay. Il vero Marco Roma, hai capito? In effetti avevamo bisogno di questo stacco, perché poi ci vuole anche della musica. Io è tutt'oggi che ho in testa questa canzone che adesso vi faccio sentire. Così ce l'attacchi che, anche. Che nasce, esatto, che nasce spaventosissima. Nasce dal dibattito che c'è stato tra Trump e Kamala Harris. Oh, e a un certo punto il meraviglioso Trump parla di come a Springfield la gente ci siano degli stranieri che mangiano i cani e mangiano i gatti. E questo tizio che si chiama, non lo trovo già più, aspetta un po', Kiffness si chiama, ha fatto un pezzo prendendo questa frase che adesso vi faccio sentire. In Springfield, che è questa. They're eating the dogs, they're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else. People of Springfield, please don't eat my dog. Here's a catalog of other things to eat. They're eating the dogs. Whoa, whoa, whoa, whoa. They're eating the cats. Meow, meow, meow, meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. Whoa, whoa, whoa, whoa. They're eating the cats. Meow, meow, meow, meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the dogs. Whoa, whoa, whoa, whoa. They're eating the cats. Meow, meow, meow, meow. They're eating the pets of the people that live there. Abbiamo in Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Fantastico. And this is what's happening in our country. Eccoci qua. Eccoci. E, oddio, ci sono un sacco di. Siete popolarissime, ma lo sapevo anche dal vostro allora, Instagram. Allora, Pasquini, noi facciamo così. Adesso chiamiamo solo gente che può aumentare il nostro share. Così, no? Infatti, sono d'accordissimo. Facciamo così e facciamo come tutti. Cioè, nel senso, basta con questo ascoltatore unico. Con questo ascoltatore unico, che fra l'altro oggi ce l'abbiamo qua. Per cui il nostro ascoltatore unico è Giancarlo Norese, che è qui nascosto. Così non ci deve riascoltare. Non ci ascolterebbe nessuno se non ci fossero le abbiamo fuorisedia. Abbiamo Eleonora che dice: un saluto alle mie veneri fuori sede, siete bravissime e sono troppo fiera di voi. Ma poi non solo, abbiamo ciao da Bibi e Naira, appassionate di arte contemporanea. Wow. Per necessità. Per necessità, cosa vuol dire? Esatto, adesso io voglio assolutamente sapere, voglio assolutamente. Esatto. Mentre invece Paolo e Gabbo dicono che la hit di Trump è incredibile. Siamo tutte conquistate. D'accordo. Sì, sì, è molto bella. Ma devo dire che su Instagram e su TikTok si trova un sacco di roba super interessante, di gente che prende i gatti, cioè prende i video virali e ci fa delle canzoni. Sì, sì, no, è veramente notevole. Cioè, mi ha lasciato senza parole. Sono qua che sto, la sto ripassando mentalmente. E quindi, come si chiamava l'ascoltatrice che ha... che appena è intervenuta dicendo che si occupa di arte per necessità? No, o non ho citato le parole esatte, però se me lo ridici, che mi interessava Pasquini. Sei ancora con noi? Sì, no, sto appassionata di arte contemporanea per necessità. Appassionata, grazie. Ah sì, questa però ha anche scritto che Naira è un dalmata. Ah no, ah, ma è il mio cane. Ah, Naira. Ah, ok. No, questa è Bibi che è appassionata di arte. Bibi è mia mamma. Ah, Bibi. Ciao mamma. Ah, cioè quindi fantastico. Allora si è capito un po' appassionata per necessità, cioè ok, chiaro. Appassionata per noi, seguire. Ah, beh, certo. Ho capito. Cioè anziché telefonati, ascolta i podcast. Mi sembra giusto. Per forza. No, invece però era più bello se lasciavamo questo mistero, perché questa dicotomia tra la necessità di una cosa che viene dichiarata come inutile da praticamente tutto il mondo, no? Cioè l'arte è il superfluo, l'inutile. Noi stessi artisti diciamo che l'arte è inutile, che non deve essere utile, giusto? Giancarlo Onorese, esprimiti. No, Giancarlo Onorese non ha nemmeno le cuffie nel microfono. Per cui. Allora lo chiedo a te, Pasquini, no? Ogni tanto anche noi lo diciamo che l'arte non deve essere finalizzata a qualcosa. Se prendi in considerazione come ho chiamato la mia zin, direi che ci siamo, insomma. Per chi ci ascolta oggi per la prima volta, diciamo che la zin di Pasquini si chiama Obsolete Shit. Esatto. Ecco. E dunque? Avevi una domanda? No. Ti pensiamo buona diretta, scrive Mia, ma guarda qua, fantastica. Io avevo una domanda per le altre due fuori sede che sono qui con monocuffia, quindi monocuffia. Diciamo che siamo in una situazione un po', estemporanea, come del resto sempre caratterizza la nota caratteristica. Mi meraviglio di che non spaziale. Abbiamo chiamato anche un violoncellista e un trombettista a caso, esatto. Infatti, effetti, lo facciamo la prossima volta. Si può fare. Allora, vai con la tua domanda. Era la mia domanda. Hai detto che avevi una domanda per loro? Sì, no, che cosa vi ha spinto a studiare arte contemporanea al DAMS? Ma non studiano arte contemporanea. Ah sì, una sola. Teresa studia arte. Ah, scusa, allora la domanda è per Teresa, grazie. Sì, ho fatto un anno al DAMS, il primo anno del DAMS si fa un po' varie tipologie di arte, quindi musica, teatro, e poi per l'arte io ho scelto arte contemporanea. Ok. E sei già pentita, naturalmente? No. No, su quello veramente no. Cioè, sto un attimo decidendo il mio percorso, però veramente una delle poche cose di cui non sono per niente pentita è aver scelto arte contemporanea. Abbiamo fatto in particolare un corso di fenomenologia di arte contemporanea e con il professor Spampinato. Mm-hmm. Che salutiamo, ricordiamo, è uscita da poco questa pubblicazione, Skank Bologna. Sì. E niente, quindi appunto lui mi ha un po' dato il via a studiare arte contemporanea più approfonditamente, e prima avevo fatto l'artistico, però appunto... Peccato. Peccato cosa? Ma no, scherzo. Peccato nel senso, peccato per l'artistico? Peccato, va bene. Così, facevo il cretino, dai. Cosa hai fatto invece? Io ho fatto l'artistico, naturalmente, è per quello che parlo il greco e il latino. Adesso voglio sapere che cosa hanno fatto. È vero, infatti, cosa avete fatto? Però abbiamo poco tempo perché c'è la pubblicità. Allora, Martina, io mi unisco al team artistico. Artistico anch'io. Scientifico. Perfetto. Grande. Io scientifico. Amelia? Classico. Hai capito? Norese? Artistico. Artistico anche loro. Wow. E quindi incredibile. Adesso siamo un po' in artistico anch'io. Cioè. E dunque sì, allora. vince di non poco l'artistico. Spaziale. Sento coxo spaziali girare sulle atmosfere, sento coxo spaziale, scendere sul pianoforte musicale, brilla coxo spaziale nel mio cuore e nei cuori dei radioascoltatori, c'è Marco Roma. È una trasmissione di Sixa. Hai visto? No, era solo per ricordarci che Marco Roma ogni tanto ascolta anche il coxo spaziale. Perché c'è scritto un grafico? Ah, buonasera, sono Yolanda da Bergamo. Sto ascoltando in diretta le ragazze di Fuori Sedie. Ha scritto: le sento così brave e preparate. Auguri a tutte, grazie. Grazie. Questa è la mia mamma. Ci vuole... amici. Ci vuole lo stacchetto per un le mamme, beh, mi sembra giusto. Dai. Vabbè, il resto no, salutiamo dire. Tutte le mamme, no, anche perché io lo so e anche le nonne, che le vostre mamme che sono lì, che appunto vi ascoltano stasera, orgogliosissime, però hanno tentennato quando gli avete detto che avreste studiato arte. Ah, sì. Già a 12 anni, capito? Ma non solo, quando avete deciso poi di continuare. Per cui io. Io da professore dell'Accademia, anzi io e Chiara da professori dell'Accademia, anzi io e Chiara e Giancarlo Norese da professori dell'Accademia. Lui è expert, cioè le volevo rassicurare che è possibile avere una carriera nell'arte in Italia malgrado le difficoltà. E quindi tutto a posto. E quindi uno stacchettino. Sì, dai. Cavoli, c'ho il mixer che fa le bizze oggi. E dicevamo, è ora di fare sta cosa qua. L'angolo della menzione. Quale angolo della menzione si apre con delle scuse che tu devi rivolgere ufficialmente a Giorgia e ad Amerigo per non aver menzionato la mostra di Barnabé Masson ad adiacenze che inaugurava sabato. Non so perché mi è sfuggita, forse perché era la 500ª puntata di Coxo Spaziale, avevamo inaugurava tutto il mondo, no, ma non solo, inaugurava veramente mezza Bologna, cioè due terzi degli spazi di Bologna avevano inaugurato quella settimana. E niente, adiacenze mi è sfuggita, per cui perdonatemi e andate tutti a vedere la mostra, che fra l'altro è molto bella, anzi di tutte quelle che hanno inaugurato sabato forse è la più, bella. O comunque è tra le top 2, diciamo, e per cui andate a vedere Barnabé Masson ad adiacenze con questi due video potenti. Diciamo anche dov'è, magari, visto che normalmente... Vicolo Santo Spirito, il numero non me lo ricordo, ma credo lo sapete voi. Credo sia 13B. 13B. Vabbè, però tanto è lunghissimo, è lungo 4 metri e mezzo. Vicolo Santo Spirito con grande fiducia. E volevo anche dire che comunque, secondo me, un po' è anche stato meglio che non sono stati menzionati, perché abbiamo menzionato male la settimana scorsa. Ti ricordi? C'erano un sacco di refusi. Sì, no, infatti. Abbiamo sbagliato. È vero. È vero, e quindi e poi qua Fesra faceva la cretinetta, appunto, e quindi diciamo che forse c'è stato anche qualche permalo, non lo so, speriamo di non speriamo di no, ma noi ci scusiamo. A proposito così di permali, io che non sono permaloso menziono che domani alle 21 Roberta Giallo è al Bravo Caffè. Non sono permaloso nel senso che lei non è venuta, pur essendo stata invitata non solo da me ma anche da Fedra e anche da altri ospiti, e io pure la rivedevo volentieri a venire a festeggiare il 500° episodio di Coxo Spaziale. Lei non è venuta senza farsi sentire né vedere, e ma dunque, noi andremo tutti, ma invece. Noi comunque invece domani alle 21 saremo al Bravo Caffè. Se volete prenotare 051 266 112, il Bravo Caffè in via Mascarella a Bologna, e questo è domani, martedì 24 settembre alle 21. E mercoledì 25 settembre alle ore 12 inaugura l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna la mostra Quadri Messi in Croce di Vittorio D'Augusta a cura di Sandro Malossini, che salutiamo, visitabile fino al 25 ottobre all'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna in Viale Aldo Moro 50 a Bologna. Mercoledì alle ore 18, sempre il 25 settembre, il Mambo presenta il volume Alberto Garutti, la più ampia ricognizione dedicata ad Alberto Garutti. Galbiate 1948, Milano 2023. Artista e docente tra le figure più influenti sulla scena artistica italiana ed europea negli ultimi 50 anni. Ad intervenire saranno Francesco Garutti, direttore associato del Canadian Center for Architecture di Montreal e figlio dell'artista, Antonella Soldaini, consulente curatoriale responsabile della ricerca di studio Celant, Simone Menegoi, direttore artistico di Arte Fiera, e Lorenzo Balbi, direttore del Mambo, Museo d'Arte Moderna a Bologna. Tutto questo è mercoledì alle 18, questo è al Mambo in via Don Minzoni 14. Ed è un po' un peccato che non ci sia Mia, perché Mia è stata una studentessa di Alberto Garutti. E ci potrebbe anche, avrebbe potuto raccontarci, magari. Mia, faccio un appello. Mia, mandaci un vocale che ci parli un po' invece di queste altre iniziative che state facendo, tutti voi ex studenti di Garutti, perché hanno creato questa gigantesca chat dove succedono cose incredibili e stanno inenarrabili. E se ci fosse dentro Leonardo Santoli sarebbe un disastro, ma qualche Leonardo Santoli ci sarà sicuramente. Sono 450.000. Nel frattempo abbiamo un saluto alle fuori sedie da Stefanello Begattola tra parentesi. Ciao Stefanello. Ecco. E le invitiamo tutte le puntate, così siamo anzi magari una alla volta, quando io non ci sono, potranno venire le fuori sedia oltre alla Giulia Quadrelli. Esatto, molto così, bene, molto bene. Dopodiché abbiamo mercoledì 25 settembre dalle 18 alle 21 opening alla Galleria Millennium della mostra Disservito, la prima mostra personale di Alice Zannelli a cura di Collettivo Origine, un viaggio attraverso il personale rapporto di Alice con il cibo ed il momento del pasto. Questa mi interessa molto. Millennium, via Riva di Reno 77 a Bologna, mi trovate sicuramente là, io che non posso mangiare. Invece questa non ce l'hai, per cui la leggo io. Mercoledì, sempre mercoledì 25 settembre alle ore 19, abbiamo Galleria Cavour 1959, che ospita un nuovo talk del ciclo I'm Proud of You con il salotto di Patrizia Finucci Gallo. Stavolta sotto i riflettori ci sarà l'esperienza delle donne nei musei, dove da tempo hanno conquistato posizioni apicali. A discuterne con Patrizia Finucci Gallo, Eva degli Innocenti, la nuova direttrice dei Musei Civici di Bologna, e Paola Pizzighini Benelli, presidente della Fondazione Palazzo Buoncompagni. Il talk è ingresso libero fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria, per cui troverete su coxospaziale.blogspot.com il link per prenotarvi, oppure cercate Galleria Cavour su internet. Questo è mercoledì alle 19. Giovedì 26 settembre alle 17 c'è un piccolo fuori porta, anche se non è fuorissimo. Sì, no, infatti l'ho dovuto menzionare perché ho scoperto di non poterci andare, mi dispiace tantissimo. Ecco, allora purtroppo nemmeno io, vabbè, però noi menzioniamo e raccomandiamo a tutti quelli che si trovano in zona o anche che volessero fare una gita fuori porta di andare alle 17 a C di Casa, progetto a cura di Elena Dolcini negli spazi espositivi della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì in corso Garibaldi 37. La mostra si compone di alcune opere di Luca Caimmi, Patrizia Giambi, Guido Guidi, Elena Amerski, Iegov, Simone Mizzotti e Daniela Tieni, e indaga la casa come luogo fondativo della vita di ognuno di noi fino al 9 febbraio, quindi c'è anche tempo e ci andremo. Fondazione di Cassa dei Risparmi di Forlì in corso Garibaldi 37 a Forlì. E invece ripetiamo la menzione della settimana scorsa, perché è stata posticipata per maltempo. Giovedì 26 settembre alle ore 18 la Project Room della raccolta Lercaro, spazio di sperimentazione e dialogo con altre realtà culturali, torna a cambiare pelle con Turbolenta Reloaded, un viaggio multisensoriale attraverso le pratiche alimentari e la cultura del cibo di Silvia Naddeo, una mostra a cura di Sandra Andruccioli e Paolo Trioschi con testo critico di Maria Rita Bentini. L'esposizione, tramite un percorso multisensoriale, indaga gli approcci della società verso il cibo e l'alimentazione. Ad ingresso gratuito, la mostra resterà aperta fino al 17 novembre. Questa è la raccolta Lercaro, non ho capito perché devo sempre dirla io questa cosa, della raccolta Lercaro, no, è una delle cose più difficili che io riesca a pronunciare. Raccolta Lercaro, in via Riva di Reno 57 a Bologna. Giovedì 26 settembre alle ore 19, via Mascarella si anima di ben quattro mostre. Forse le dovrebbe leggere il nostro ospite silente, perché che Mega 2, che non lo farà naturalmente. Mega 2 presenta Tana, personale di Sara Cortesi. La produzione recente di Cortesi allude a un bestiario alieno e fantastico. Le creature si mostrano come costrutti di membrane, pelle, pelo e piume. A Mini Mega, Sergio Breviario presenta Antologica 17. A Micromega Giancarlo Norese presenta Morandino e, come scrive il comunicato stampa di Guillaume Rosneft, nel contatore del gas adiacente alla libreria Modo inaugurerà un nuovo polo museale, il acronimo di Mega Modo Mascarella Museum, spazio destinato ai maestri storicizzati dell'arte con una mostra di opere provenienti da collezioni private di Joseph Beuys, Luigi Ontani e Maurizio Cattelan. Mega 2 e dintorni, via Mascarella 16A. E, insomma, direi che durerà poco la mostra a Micromega, perché, cioè, se effettivamente è vero che ci sono opere di Joseph Beuys, Luigi Ontani e Maurizio Cattelan, se rimanesse aperta più a lungo forse sparirebbero. Hai qualcosa da aggiungere? Tu che sei silente e che presenterai Morandino. Se vuoi ti do, che poi silente e anche assordato perché non ha nemmeno le cuffie, però non so, magari potresti dire non so ancora cosa succederà perché sto ancora facendo il lavoro e non so nulla. Il nostro ospite silente non è in grado di contribuire alla comprensione della propria opera, come spesso succede con tutti gli artisti. E, punto. È tutto un mistero. Un mistero. Venerdì 27 settembre alle ore 18, Erika Calardo e Bottega, Lacrime di Pietra. La mostra collettiva di Erika Calardo, Genova 1980, pittrice figurativa professionista che vive e lavora a Bologna, e di 30 suoi allievi, visitabili al Museo Civico del Risorgimento di Bologna dal 28 settembre al 17 novembre. Conduce un percorso simbolico, evocativo, che trasla nel contemporaneo il patrimonio artistico della città. La mostra è promossa dall'Associazione Culturale Felsina Pittrice in collaborazione con il settore Musei Civici Bologna, Museo Civico del Risorgimento. Tutto questo è appunto venerdì alle 18 al Museo Civico del Risorgimento in piazza Giosuè Carducci 5 a Bologna. Venerdì 27 settembre, colpo di scena, ce lo legge. In occasione del Robot Festival a Palazzo Renzo abbiamo invece il meraviglioso Andrea Renzini e i suoi Folwerk, non so se la gente adesso, Folletto, suoneranno con Angela Baraldi e Suz. Non ci sono altre informazioni al riguardo, ma sul sito www.robotfestival.it forse tra un po' salta fuori qualcosa. Questo si tiene a Palazzo Renzo in Piazza Maggiore a Bologna. Attenzione perché abbiamo un vocale di Riccardo Lolli, però aspettiamo perché mancano due menzioni, per cui andiamo avanti. Sabato 20 alle 18.30, inaugurazione della mostra personale di Claudia Amatruda, vincitrice dell'ottava edizione di Parsic Residency Arts and Ecology. Claudia Amatruda è un'artista visuale che vive e lavora a Bologna. Il suo lavoro si concentra sulla rappresentazione del corpo attraverso la fotografia e video installazioni, affrontando tematiche sociali sostenute da ricerche su testi scientifici e letterari. Tutto questo a Parsec, in via del Porto 48 CD a Bologna. E domenica 29 settembre, invece alle ore 11, Giorgio Morandi alla tecnica dell'acquaforte, l'insegnamento a Francesco Bagnaresi, a cura di Paolo Gualandi, con una presentazione di Mirko Nottoli. Acquisizione 2024 della raccolta permanente d'arte Bologna Velata. Artisti bolognesi di fine 900 a 500 metri sul livello del mare. E, questo è Oasi? È l'Oasi Opificio Artistico Silvestre Ideale, Attole Vergato, Bologna. Grazie. E invece lunedì 30 settembre alle 18.30 a Modo Infoshop la presentazione di Le Istericomiche Avventure di Martino Luterino, un libro CD di Emanuela Biancuzzi, Vittore Baroni e Le Forbici di Manitou. L'incontro è con Carlo Branzaglia, docente di design per la comunicazione Accademia di Belle Arti di Bologna, Federico Montanari, docente di semiologia Unimor Reggio Emilia, e saranno presenti anche Vittore Baroni, che è un mito della mail art, autore, critico musicale, poeta e mail artist. Infatti non posso non andare a incontrare uno con cui mi scambio mail art da 20 anni, Andrea Landini, musicista fondatore di Forbici di Manitou, Emanuela Biancuzzi, illustratrice, fumettista e pittrice, e Paolo Davoli, editor di Risosfera Nukem. Tutto questo alla libreria Modo Info Shop in via Mascarella 24B a Bologna. Non li possiamo portare in radio perché si sovrappone. Perché sono là. Perché loro sono là e noi siamo qua. Possiamo fare una diretta da là? No. Potremmo fare. No, non possiamo fare una diretta da là. Peccato. A meno che non la vuoi sponsorizzare. Faremo tu, un'indiretta da qua. Perché le dirette da fuori hanno un costo che noi non affrontiamo. No, direi che mi sottraggo a questa proposta, molto, benché molto allettante, bene. Benché io ricchissimo. Sentiamo cosa ci dice Riccardo Lolli, che ci ha dato questo. Chiara, non andare ad Ankara, non ancora. Ah, ecco. Riccardo Lolli lancia questi appelli che si autoriferiscono a una hit meravigliosa che ha composto per tutte noi conduttrici e che abbiamo sentito la settimana scorsa, per cui se per caso ve lo siete persi andate su coxospaziale.blogspot.com e poi riascoltatevi queste due ore inascoltabili di 500esima puntata, dove però ci sono, magari si può skippare, si può andare, mettiamo il minutaggio in cui compare il pezzo di Lolli, che quello secondo me era veramente pregevole. Tu lo sai il minutaggio? No, però magari più avanti lo possiamo comunichiamo mettere. Seguiteci sui social e sarà fatto. Invece qua era emersa una domanda, ecco, all'interno dello studio. Sì, e quindi anche perché, lasciamo appunto, spazio, il tempo corrissimo, vediamo se riusciamo a fare una domanda seria e una risposta che non potrà che essere tale. In realtà è una domanda un po' macro, quindi forse non c'è tantissimo tempo, però intanto la faccio. Visto che il vostro progetto nasce principalmente con scopo divulgativo, però speriamo che, diciamo, la divulgazione non è chiaramente una cosa neutra, quindi faccio questa domanda anche a te, soprattutto che ti dedichi alla didattica dell'arte, dicevi, quindi qual è il rapporto fra arte e divulgazione, com'è possibile, diciamo, anche in qualche modo, non voglio dire volgarizzare, però comunque trasmettere l'arte anche tramite un mezzo come quello dei social, in cui il tempo, insomma, è anche ridotto. Prendetela un po' dal punto che preferite, insomma. Allora, noi ci rapportiamo a questa cosa nella maniera più serena possibile, nel senso che quello che noi non stiamo insegnando nulla a nessuno, e mentre noi facciamo impariamo. Quindi le nostre sono veramente chiacchiere dove si vengono a scoprire delle realtà, dei progetti, delle persone che si raccontano e ci raccontano quello che fanno. Quindi in realtà l'interpretazione è molto aperta, e per cui non ci cerchiamo di non, quando ci posizioniamo rispetto ad un tema, lo facciamo nella maniera più naturale possibile, aperte anche alle critiche, eventualmente poi a un dibattito, una discussione. E noi ce la viviamo molto così, stiamo imparando anche noi, per cui è tutto molto in divenire, ecco. Non so se voi volete aggiungere qualcosa rispetto a questo. Sì, io sono d'accordo, diciamo che noi comunque abbiamo una formazione più teorica da storiche dell'arte, e ci piace anche un po' scardinare quest'idea dell'arte come una materia inaccessibile, soprattutto l'arte contemporanea. Quindi in realtà è una sfida anche per noi, perché neanche noi sappiamo esattamente il modo migliore per divulgare questo periodo storico artistico, e ci proviamo, non lo so, almeno questo è un po' il nostro modus operandi, secondo me. Sì, sicuramente mi viene da dire che il format del podcast è più utile in qualche modo, no? Per fare un certo tipo di divulgazione, cioè comunque le nostre puntate durano dal 45 minuti all'ora. Ora un quarto, e questo ci permette di fare proprio delle chiacchiere più approfondite rispetto a quello che ci interessa. Sui social effettivamente è più difficile, perché i video o comunque i post richiedono un certo tipo di divulgazione, che per forza di cose è più breve, appunto. Sì, tant'è che comunque non è che a livello proprio di pubblicazione puntiamo tanto sui reel, che comunque sono qualcosa di un più istantaneo, più veloce, ma di solito se dobbiamo fare dei contenuti divulgativi su un social come può essere Instagram, preferiamo sempre delle belle grafiche, però appunto con post a carosello, che quindi permettono anche di contenere molto testo e quindi di poter fare anche tutta un'analisi di contesto che è doverosa in certi casi. Sì, ci sono tante cose da dire, tanti temi ogni volta che si affronta un'opera, un progetto, un artista, e ci rendiamo conto che è limitante il social sotto questo punto di vista, però noi vogliamo anche un po' smuovere le coscienze e stimolare. C'è questa cosa, ti interessa? Noi forse ne abbiamo parlato, ne parleremo, oppure se si vuole fare ricerca in autonomia, ecco, sottolineiamo delle cose secondo noi interessanti da conoscere, da studiare. Quindi c'è speranza, diciamo, per la diffusione. Esatto. Tutto questo va poi nella direzione, diciamo, di quello che si diceva prima alle mamme in ascolto, giusto? C'è speranza anche per noi. C'è speranza anche per noi. Sì, sì. Io volevo farvi sentire questo singolo chiamato Sparrows di Misha Cicloma, che mi ha spedito Nicola di Peyote Press, ma avete parlato troppo, per cui sta finendo e vi faccio sentire la fine. È già finito, però è un bel pezzo, molto bello, sì. Molto bello. Devo dire che la selezione musicale è, dalla 500esima puntata in poi, è stata ottima. Sì, non è grazie a me, cioè nel senso che io... grazie ai musicisti che la compongono, certo, no? E soprattutto grazie agli uffici stampa musicali, che non si sa bene perché li mandano questi pezzi a Coxo Spaziale. Io li ringrazio tutti, sono 5 o 6 in questo momento. Perfetto. Questo appunto veniva da Nicola di Peyote Press. E niente, abbiamo 2 minuti e mezzo per raccontarci qualcos'altro. Che cosa vogliamo aggiungere? Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? O? Oddio, abbiamo detto un sacco di cose. Un sacco di cose. Non lo so, volete aggiungere qualcosa? Cosa direste? Ah, io ho una domanda per voi, ma se non vi arrivano i fondi per il prossimo anno di Fuori Sedia... Ma perché devi essere così negativo, scusa? No, noi anche siamo così, Dico, se non arrivano i fondi, continuerete a farlo? Il fatto è che non arriveranno. Non arriveranno. Non riapplicheremo allo stesso bando. Beh, ce ne sono altri comunque. Ce ne sono altri che bisogna cercare. Viviamo la giornata, vediamo. Però Fuori Sedia sopravvivrà. Okay, anche perché con il primo bando avete comprato l'attrezzatura, a questo punto ce l'avete, le mamme sono tranquille, esatto. la bici ce l'avete, direi che si può andare avanti, esatto. E eventualmente spostarsi di nuovo nella tua cameretta, no? anche volendo, soprattutto vabbè, perché tu devi tornare a raccontarci un sacco di aneddoti, quindi vengo comunque... con Santo esatto. Sono tutti su Pasquini, cioè, esatto. Ho l'ospite unico, no? Ma infatti a me Fuori Sedia piace molto perché vengo menzionato a ogni puntata. Sì, l'abbiamo menzionato anche nell'ultima, l'arte partecipativa. Per cui sì, devo dire che... Stai diventando il nostro nuovo Renato Barilli, perché prima era lui che ci davamo in continuazione. Questo forse ha fatto... Vabbè, ha fatto male. No, non diciamo niente, salutiamo Renato Barilli, che non so se ci ascolta, ma è stato anche il nostro ospite. Ah sì? Comunque Bibi dice, comunque grazie, ed è sicuramente un mondo da scoprire. E io invito Bibi a venire a Coxo Spaziale, che è sempre mia mamma, e a scoprirlo con noi. Beh, appunto, comunque una volta se ti viene a trovare un lunedì, sappi che è benvenuta, perfetto, a Coxo Spaziale. Perfetto. Ancora prima di essere ospita Fuori Sedia, esatto. Grande mamma, mi sembra giusto. Ovviamente, infatti, una volta dobbiamo farla questa puntata, la puntata su parenti e degli artisti, cioè genitori e parenti, no? Le famiglie degli artisti. No, a me interessano particolarmente i genitori di quegli studenti che poi magari dopo sono andati appunto al DAMS o all'Accademia, ma a cui non hanno fatto fare il liceo artistico, perché quasi voi tutte avete fatto il liceo artistico, siete state delle privilegiate, perché come sapete molti vostri amici volevano fare l'artistico e non glielo lasciavano fare. Questa cosa mi ha... Possiamo provare a convincere la mamma dell'Ivana Spinelli a venire. Ecco, vediamo gli amici di Panto 80 che ci fanno che vedere facendo che, sia, che siamo già preoccupati dal numero di, altamente dal numero di ospiti qui, sanno infatti, che ci mettiamo un po' a sgombrare appunto, il campo e dunque, quindi anticipiamo un po' i saluti. Non possiamo far altro che salutarvi tutte e tutti, cioè tutte più Giancarlo Norese che però non ha detto niente, e come al solito salutarvi con le parole del nostro direttore che dice così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. La sigla parte piano, per cui possiamo di nuovo salutare tutti con nome e cognome. Vai Chiara. Martina Scrazzolo. Dite tutte ciao quando vi chiamo. Ciao. Viola Pierozzi. Ciao. Valeria Sciabani. Ciao. Letizia Albertini. Ciao. Teresa Paladini. Ciao. E Amelia Foti. Ciao. E Giancarlo Norese. Ciao. Lo faccio io, ciao. Sono Pietro Giusti. Bene, questa era Coxo Spaziale. Come al solito ci risentiamo lunedì prossimo con meravigliosi ospiti, sempre dalle 20, sempre dalle 20 alle 21, sempre su, su Radio Città Fujiko. Io ero Chiara Pergola. E io ero un pasquini di qualunque, mi dice il nostro ascoltatore musicalmente informato. Ok, ciao ciao. So I sit to write this down. I guess it's not really brave. I know I'm not a lake. I haven't written this part yet. Will you help me write it? You are bug bites on vacation. You find the sad in everything. Radio Città.